Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, seconda puntata che sull'onda di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, mi riferisco alle vicende che coinvolgono la National Security Agency e quindi milioni di cittadini americani e non solo americani che sono spiati per via telefonica, per via email. Ieri ci siamo occupati di alcune criticità che stanno nascendo e forse senza che ce ne rendiamo bene conto intorno alle infrastrutture per la cosiddetta Smart City. Continuiamo a parlarne questa sera, è tornato a trovarci Igor Falcomatà. Buonasera Falcomatà. Buonasera. Falcomatà è un hacker, è un esperto di sicurezza informatica, è il tecnologo di punta di un'azienda che si chiama Enforce e che si occupa appunto di questi temi. Dunque Igor, il primo tema di cui vorrei parlare con te questa sera è quello che va sotto il nome di diritto all'oblio. Esattamente, il problema del diritto all'oblio c'è sicuramente per quel che riguarda tutti i dati online che finiscono poi negli archivi dei motori di ricerca, per esempio Google e così via, e quindi lì c'è tutta una parte legislativa che si sta muovendo per permettere al singolo cittadino di riuscire a interagire con un gigante come Google e chiedergli rimuovimi se effettivamente ho il diritto all'oblio per un certo dato che non è più rilevante, rimuovimi dai tuoi archivi e non rendermi più facilmente riconoscibile per un errore di gioventù che può essere certo. Un procedimento penale o addirittura come può capitare magari un procedimento penale che in primo grado mi vede colpevole e poi magari vede una soluzione. Certo, però restano su internet tutti gli articoli nei quali c'è scritto che sono stato condannato in primo grado, no? Esattamente, ma certo. Non ci sono quelli in cui sono. E magari non ci sono quegli altri, peggio ancora. Esattamente. E un altro problema legato soprattutto specificamente ai big data sì. È proprio un problema tecnologico di cancellazione dei dati che potrebbero non essere più rilevanti. Questi dati molto spesso vengono salvati in dei formati che ne permettono appunto la grande accumulazione in grande quantità, ma tecnologicamente è molto difficile esatto. Cancellare un singolo record, una singola riga, e quindi sì, diciamo che è un problema tecnologico. Sì, questi big data, per dare un'idea, sono queste grandi masse di dati grezzi che vengono raccolti, no? Per esempio tutti i commenti di Facebook, non so, potrebbero essere un big data. In realtà sono una massa di dati informe, come rovesciare dei fogli di appunti dentro uno scatolone. Per cui poi si riescono a tirar fuori lo stesso le informazioni, ma separare i singoli fogli è un casino terribile. Mentre una volta si mettevano i fogli negli archivi, per cui si riusciva a fare quell'operazione. È un po' questo quello che è successo. È aumentato il contenuto informativo, ma adesso andare a togliere delle robe è diventato difficilissimo. Tutto aggrovigliato. Assolutamente. L'esempio che hai fatto è perfetto. Mentre una volta prendevo la cartelletta con scritto Igor e la buttavo via o toglievo gli ultimi fogli, adesso questi big data sono degli enormi contenitori di dati non strutturati, per cui togliere una singola riga o un singolo riferimento a me stesso è molto molto più difficile che farlo con un archivio organizzato. Senti, tornando un po' al tema di apertura, questa vicenda della NSA, ecco, ti chiedo un'altra cosa, al di là di email, sms, telefoni naturalmente, diciamo telefonate che possono essere ascoltate, quali trovi che siano, diciamo, i sistemi più invasivi o le tecnologie più invasive che si stanno diffondendo oggi, quindi che mettono più a rischio la privacy? Ah, per tornare a bomba sul tema, sul titolo della trasmissione, le smart cities, sicuramente nella tecnologia che ha a che fare con le smart cities la parte più pericolosa per la privacy è legata alle telecamere di sorveglianza. Noi sappiamo benissimo che nelle nostre città ormai sia i privati, quindi pensiamo a qualsiasi banca, qualsiasi attività commerciale ha delle telecamere, sia quelle pubbliche, quindi le telecamere per il controllo del traffico, telecamere per il controllo dei flussi e così via, tutte queste immagini raccolte possono ormai essere utilizzate con algoritmi, con software automatizzati che permettono per esempio di riconoscere le facce, di riconoscere un certo tipo di atteggiamento. Cioè, potenzialmente esistono tutti questi algoritmi in grado di estrarre informazioni, non c'è bisogno che ci sia una persona che sta guardando quell'immagine e il computer dice lì c'è uno che è un sospetto, oppure lì c'è uno che sta spaccando una vetrina. Potenzialmente tutto questo, se non è già possibile, lo sarà tra poco, no? Esattamente sì. Diciamo che sicuramente sono molto avanti gli studi sul riconoscimento facciale, tant'è che addirittura Facebook voleva, come tecnologia, voleva implementarlo per il tagging automatico delle foto. Se io metto una foto mia, Facebook riconosce la mia faccia perché da un altro tag di un'altra foto sa che sono io ed è in grado di autotaggarmi. Certo. Ecco. pensate a questa cosa qui con la sofisticazione che può esserci dietro la ricerca spinta da grossi fondi, quindi non so se... Beh, insomma, basta pensare a questa cosa fatta dagli stessi signori che ci controllano le email, insomma. Esatto. Dire. Poi pensa anche a come potresti incrociare questi dati, quindi io guardo, non so, accesso a una telecamera che è puntata in un punto di passaggio, vedo tutte le facce che passano, anche se non so chi sono e se non ho un database di facce preesistente, vado a incrociarlo con i dati che... ipoteticamente, pensiamo all'NSA, che ipoteticamente ho recuperato da Facebook, quindi direttamente so che Tizio Caio sta passando alle ore tal dei tali dalla tal calle di Venezia, per fare un esempio, o dalla tal stradina di Milano, per fare un altro esempio. Allora, stiamo andando un po' in un'ipotesi orwelliana, però diciamo che tecnologicamente questo tipo di riconoscimento è possibile, quindi se io adesso devo pensare a una delle misure più invasive della privacy legata alle smart cities, è sicuramente questo delle telecamere. Un altro esempio è il controllo dei flussi di traffico basati sul riconoscimento della targa, che è anche tecnicamente molto molto più facile da fare dal riconoscimento di una faccia. Quindi se io ho le telecamere che controllano i varchi ZTL o comunque controllano il traffico, posso registrare in tempo reale la targa, posso per esempio incrociarlo con i dati, non so, del telepass o delle assicurazioni o della motorizzazione, che sono tutti dati che un governo si presuppone che abbia da qualche parte, facilmente, sì. Esatto, e posso incrociare, posso tracciare chi, magari non il guidatore, ma almeno il veicolo intestato a quella persona che giri fa, che cosa fa, insomma, quindi diciamo che questo tipo di informazioni potenzialmente sono molto invasive della privacy, però okay. C'è anche da dire che adesso come adesso io mi preoccuperei molto di più dell'invasione della privacy legata al controllo della mail, al controllo dei cellulari. Sì, che utilizziamo in modo abbastanza inconsapevole sostanzialmente. Allora, grazie Igor Falcomatà, ci fermiamo qui, ma ricominciamo domani anche perché il peggio deve ancora venire. Grazie a voi, buona serata. A domani.